perché le anime loro, quando muoiono presto, vengono sciolte in tutti gli elementi. Ma la mia vivrà nel duro inferno! Maledizione ai genitori miei! No, no, no! Maledici te, Faust! E Lucifero, che ti ha privato delle gioie del cielo! Suona! Suona! Suona! Dio! Dio mio, non guardarmi! Non guardarmi con tanta ferocia! Ragni! Serpenti rospi! Vipere! Ah, fatemi respirare! Non spalancarti! Orrendo inferno! Io brucerò tutti i miei libri! Mefistofele! È il ramo che poteva crescere diritto. È il lauro d'Apollo che un giorno crebbe in quest'uomo dotto. È bruciato. Faust fu. Ricordatevi della sua fine. Che l'uomo saggio impari dal suo destino diabolico a rinunciare alle cose illecite i cui segreti spesso inducono gli ingegni audaci a far di più di quanto il cielo approvi. Dr. Faustus di Christopher Marlowe, traduzione in versi di Rodolfo Wilcock, con Edoardo Siravo e Antonio Salines e Francesca Bianco, Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani, Germano Rubbi, Roberto Tesconi, Anna Paola Vellaccio, musiche Francesco Verdinelli, regia Carlo Emilio Lerici. L'agenda della settimana teatrale. Con Stefano Messina, che interpreta e ha curato la messa in scena de I Romani in Russia di Elia Marcelli, adattamento Marcello Teodonio, con Carlo Lizzani e Stefano Messina. Ben trovato. Grazie Federico, grazie a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Streaming dal 9 al 14 febbraio 2021, come lo presenteresti questo lavoro? A parte questa nostra prima esperienza in streaming dovuta, sappiamo tutti che insomma che da ormai un anno i teatri sono chiusi, per cui il Ministero ci ha dato questa indicazione che noi sfruttiamo per proporre appunto alcune cose che riteniamo interessanti, tra cui a questo I Romani in Russia. È in forma di reading, quindi con i DG, io e Carlo Lizzani, e raccontiamo questo poema, che direi epico, che Elia Marcelli ha scritto ad un certo punto della sua vita, per necessità, per dovere, per affermare alcune verità che fino a quel momento non erano ancora conosciute. Per cui è comunque un esercizio per riaffermare la memoria, come sappiamo dobbiamo sempre tenerla viva, e ce lo insegnano tante persone, da poco è passato il giorno alla memoria, per cui anche per il mezzo, in fare un streaming, ci sembrava un'opportunità riproporre questo I Romani in Russia, che in qualche modo l'avevamo già riproposto in teatro. Per quanto mi riguarda nasce proprio come un'esigenza, per raccontare questa storia che bisogna sempre nel presente, soprattutto in alcuni momenti storici, di grande confusione come questo. Tra l'altro un testo che ha ricevuto molta attenzione è almeno la terza messa in scena che io ricordi, da Simone Cristicchi a Nicola Pistoia e Paolo Triestino. Sì, esatto. La prima edizione, quando l'abbiamo portato in scena, c'era Paolo Triestino, Nicola Pistoia e Paola Minaccioni, di cui io appunto curavo la messa in scena. Parliamo, credo, di 10 anni fa, forse. Poi, anche grazie a Marcello Teodonio, anche Simone Cristicchi si è avvicinato a questo testo, lui l'ha fatto proprio in forma di spettacolo, a memoria, insomma, un'operazione anche un po' più complessa. E devo dire che è un testo adattato appunto a Marcello Teodonio, perché il poema c'è tanta roba, sono tanti versi. Chiaramente quello che noi proponiamo è un adattamento, anche una riduzione, perché il poema è veramente è un bel libro. È un testo che comunque, veramente teatralmente parlando, funziona sempre. Riesce a catturare lo spettatore, l'ascoltatore, in modo straordinario, perché scritto intanto appunto in dialetto romanesco, un dialetto però semplice, accessibile a tutti, non c'è nulla di difficile, insomma, o qualcosa da decifrare. Però l'immediatezza del verso e quasi il tono colloquiale con cui Marcelli racconta queste vicende terribili inchiodano veramente, e grazie alla parola inchiodano l'ascoltatore a queste vicende con grande commozione. E siccome Marcelli usa anche l'arma dell'ironia, anche in momenti soprattutto drammatici, che poi diventano grotteschi, anche a volte con divertimento. Devo ricordare anche le musiche del maestro Pino Angelosi, che colgono con perfetta assonanza i momenti più drammatici e commoventi del testo. Ci fanno entrare ancora meglio, insomma, in questo clima descritto da Marcelli di fame, di freddo, anche di paura, con dei momenti anche molto divertenti, che poi è quello che succedeva ai ragazzi. Non scordiamoci che questi ragazzi avevano 20 anni. Ricordare oggi quanto successo allora, che importanza ha? Come mantengono una freschezza, un'attualità i versi di Elia Marcelli? Ci sono tanti motivi di attualità. Il primo che mi viene in mente, per esempio, oggi le chiamiamo fake news, allora era propaganda, ed era la propaganda fascista. In uno dei primi capitoli del poema intitolato La passeggiata, perché appunto la propaganda fascista racconta che bisogna andare a Mosca, sarà una passeggiata perché l'invincibile esercito nazista ha già conquistato Mosca, e quindi noi andiamo lì soltanto per entrare a Mosca a passo di parata. Chiaramente questo non sarà assolutamente vero, partiranno da luglio del 41 dalla Cecchignola e torneranno, i pochi che torneranno, nel 43, una disfatta, una tragedia immane, una campagna vergognosa, mandati allo sbaraglio ad affrontare l'inverno senza vestiti, senza armamenti, senza nulla. Per cui, ecco, la propaganda che racconta una cosa, una verità che non c'è. L'altro motivo, credo che sia fondamentale, quello che, come lui definisce, la lotta alla guerra o la guerra alla guerra non è mai finito. Non è mai finito, nel senso l'essere vigili, l'essere sempre presenti in ogni momento della propria vita, contro ogni guerra, contro ogni fascismo, contro ogni momento sociale della vita che non sia democratico, con la nostra coscienza, la nostra etica, dobbiamo sempre vigilare su quello che è la nostra più importante, una delle più importanti risorse, che è la nostra Costituzione. Bisogna far sì che nessuno calpesti questa Costituzione, la nostra Costituzione, che è una, lo diciamo spesso, ma ci crediamo veramente, è una delle più belle del mondo. Allora dobbiamo far sì che questa Costituzione, scritta poi da chi è stato partigiano, da chi ha contribuito alla liberazione dal nazifascismo e ha costruito, scritto questa Costituzione, ecco, dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere le sentinelle di questo atto fondamentale per la nostra vita democratica. E questo dobbiamo farlo sempre, e dobbiamo trasmetterlo ai ragazzi, affinché possano capire realmente quello che è successo. Mi sono un po' infervorato, ma l'argomento lo richiede. Per tutte le informazioni c'è come riferimento il sito internet del Teatro Vittoria, giusto? Sì, esatto, abbastanza semplicemente c'è la pagina degli Romani in Russia, cliccando si acquista direttamente poi dal link il biglietto, che ha un costo di 5 euro. Ci sono gli orari in cui può essere acquistato, e acquistato questo spettacolo poi è usufruibile per 48 ore. Parte questo primo esperimento, ce ne saranno minimo altri due che manderemo in onda. La direzione artistica di Milano Romagnolo ha voluto in qualche modo sviluppare dei temi su Roma, sulla nostra città, che faremo prossimamente con le donne del Risorgimento, le donne che hanno contribuito al Risorgimento italiano, e poi qualcosa stiamo scrivendo su Roma vista da un punto di vista particolare. Saranno i prossimi appuntamenti di questo canale streaming del Teatro Vittoria, che speriamo possa essere soltanto complementare a quella che poi è l'attività di palcoscenico, che chiaramente ci auguriamo che possa riprendere il prima possibile. I Romani in Russia di Elia Marcelli, adattamento di Marcello Teodonio, con Carlo Lizzani e Stefano Ommettino, in streaming dal 9 al 14 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Messina. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti voi, grazie. Con Tiziano Panici del Teatro Argo per presentare Over, emergenze teatrali, residenze artistiche e spettacoli in streaming all'Argo Studio. Bentrovato. Bentrovato, Fede. Eccoci qua. Ancora a combattere, diciamo, nonostante la situazione generale ancora critica, però stiamo portando avanti diversi progetti. Anche l'Argo adesso si riprenderà da questo torpore forzato che a cui ci ha costretto l'inverno. Stiamo soprattutto progettando per recuperare dei progetti dedicati sempre ad artisti emergenti, che non solo è da sempre la nostra vocazione, ma probabilmente è anche il problema principale che si è posto in questo lockdown, nel senso che la chiusura forzata dei teatri, dei musei è una sofferenza per tutti, però ci sono anche spazi che hanno potuto mantenere in qualche modo la possibilità di portare avanti le attività di produzione, di prove. Noi abbiamo, come piccolo spazio a Roma e come molti altri piccoli spazi come noi, non solo abbiamo aperto tutte le attività e tutti i laboratori, ma per lungo tempo è stato difficile anche poter rimmaginare appunto la possibilità di ospitare artisti, e invece finalmente la stiamo recuperando, fissando degli appuntamenti dove gli artisti saranno in residenza, ma produrranno anche una restituzione pubblica che ovviamente non potremo che trasmettere in streaming. Anche questo però è uno sforzo necessario che ci sentiamo di fare per comunque dare un segnale di vita e rimanere comunque vicini al nostro pubblico, e soprattutto far lavorare gli artisti, che rimane un tema cruciale in questo momento. Tre residenze e due spettacoli, giusto? Giustissimo. La prima residenza è quella di Alessandro Sesti. Alessandro è un autore e regista umbro, quindi pericolosamente in zona rossa da questa settimana. Dovrà anche qui affrontare una maratona, venire tamponato. Però avvierà la residenza su un nuovo progetto che è già in collaborazione con lo spazio ZUT, che è appunto un altro centro di residenza umbro, con Strabismi Festival e con Kilowatt Festival. Quindi è un percorso itinerante, lo spettacolo appunto si rivolge ad un solo spettatore alla volta, quindi è pensato per un formato particolare ed è pensato sempre per essere un teatro di indagine. È la caratteristica anche un po' del teatro di Alessandro Sesti, che presenterà domenica invece un suo spettacolo di repertorio, che è Ionica, con cui è stato segnalato quest'estate al premio Direction Under 30, sempre appunto dedicato ad artisti giovani. Tra l'altro con Alessandro e con Direction è appena nata una bellissima collaborazione, che è quella di Risonanze Network, un progetto proprio per valorizzare il teatro emergente appunto degli artisti più giovani, e questo sarà il nostro primo appuntamento. A seguire un'altra artista giovanissima, Cristel Checca, regista di uno spettacolo sul tema del body shaming, in particolare inserito all'interno dei contesti virtuali, quindi qui lo spettacolo che verrà trasmesso sempre la domenica alle ore 18, Oblio appunto parlerà del rapporto tra chi guarda, chi si trova a essere spettatore dello schermo e chi si trova a essere spesso oggetto di violenza senza neanche saperlo, in particolare sul corpo femminile, ma non soltanto. E infine l'ultima residenza sarà quella di Osteria Fermento, compagnia che abbiamo premiato insieme ad una collaborazione nata con Teatron e il Teatro Nest di Napoli, un altro centro di produzione piccolo, uno spazio off resistente che però appunto si è unito, si è gemellato con Roma per portare avanti questa progettualità. La compagnia di Osteria Fermento si è formata all'Accademia Romana della Silvio D'Amico e poi appunto adesso sta proseguendo il suo percorso indipendente. Over è un progetto pensato proprio per sostenere produttivamente, ecco il perché delle residenze, e dare una spinta iniziale a progetti che vogliono avere uno spazio dove poter costruire il proprio percorso, mettersi alla prova con lo sguardo esterno ovviamente e iniziare appunto a camminare con le proprie gambe. Per questo è un progetto che abbiamo già messo in campo più di 2 anni fa e stiamo riuscendo a portarla avanti, chiaramente con tutta la difficoltà del momento, ma ci mettiamo tutto il nostro impegno. Per i riferimenti c'è il sito internet dell'Argo? Ovviamente www.teatroargostudio.it e ovviamente potete seguire le nostre pagine social che sono curate appunto proprio da Teatron, che ormai è un soggetto di riferimento appunto per la comunicazione sia del nostro spazio che di molte altre realtà italiane e che tiene aperto anche un canale di informazione sul teatro contemporaneo. È stato appunto un incrocio con una realtà, questo ci tengo a dirlo. Il progetto di Over stiamo riuscendo a portarlo avanti grazie alla collaborazione appunto con diversi soggetti attivi non solo nel campo appunto dell'arte e del teatro ma anche della comunicazione. Oltre a Teatron anche Monoscopio è il gruppo praticamente di videomaker che ci permetterà di riprendere e mandare appunto gli appuntamenti in streaming, quindi oltre che sul sito vi consiglio di seguirci sulla nostra pagina Facebook e Instagram dove verranno poi trasmessi in diretta gli spettacoli la domenica alle ore 18 come vi dicevo. Over, emergenze teatrali, residenze artistiche e spettacoli in streaming all'Argo Studio. Un saluto e un ringraziamento a Tiziano Panici. Un abbraccio, in bocca al lupo, alla prossima. Grazie a voi e lunga vita al lupo sempre. Con Andrea De Manincor, direttore artistico di Casa Shakespeare, per presentare la prima rassegna di streaming drama. Abbiamo rapito William Shakespeare, sta bene, è in buone mani, solo avevamo altri programmi per lui. 7 titoli per 14 repliche dal 28 gennaio al 26 marzo 2021. Andrea, ben trovato. Buongiorno, ciao Federico, grazie mille, grazie dell'opportunità di parlare di questa cosa così strana, che è la prima rassegna totalmente online dal vivo, ci tengo a sottolineare, ecco, questa è la prima cosa fondamentale. E allora parlacene diffusamente. Che cos'è questo rapimento di William Shakespeare? Beh, il fatto di averlo rapito significa che lo portiamo un po' più vicino al nostro tempo, lo stiamo custodendo, direi così, presso la nostra casa reale, che è esattamente non digitale, non virtuale, in questo caso che è il Teatro Sacro di Vicolo Satiro 8 a Verona, però in realtà da lì, perché come sappiamo attualmente l'emergenza sanitaria non permette ai teatri di aprirsi al pubblico, ma di poter continuare a lavorare, questo sì, con le proprie maestranze, gli attori, i tecnici, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto quindi questo sforzo di poter continuare a vivere di teatro, perché la nostra necessità è un po' quella di raccontare le storie teatrali, in particolar modo, in questo caso, di un nome tutelare come William Shakespeare, però appunto lo custodiamo presso il Teatro Satiro perché abbiamo deciso di raccontarlo in un modo completamente diverso. Cosa significa? Che abbiamo deciso di raccontarlo attraverso una cosa che noi chiamiamo streaming in drama e che si sta sempre più delineando come una specie di genere, di format, di forma o di formula per certi aspetti. Ovvero sia, lo streaming drama è una ripresa dal vivo, cioè quindi il pubblico si connette, è presente, ma nel senso che è presente su una piattaforma ed è una piattaforma che permette l'accesso ad uno spettacolo live, dal vivo, in presenza all'interno del teatro, ma attraverso gli schermi e i device tecnologici per il pubblico, quindi i PC, insomma i computer, i telefonini, gli smartphone, particolar modo, e attraverso la visione di questo spettacolo noi cerchiamo anche di restituire appunto un modo diverso di raccontare Shakespeare, senz'altro di raccontare il teatro, cioè di utilizzare lo strumento più antico del mondo della comunicazione, che è il teatro, adattandolo però alle esigenze tecnologiche. Quindi le riprese sono fatte, per così dire, attraverso un meccanismo di oggettiva soggettiva, per cui campo e controcampo, che scruta in qualche modo benissimo negli occhi e nel viso soprattutto degli attori. Infatti una delle cose che faremo sarà sempre più quella di studiare, come dire, anche la stessa espressione facciale, la mimica, rispetto alla storia che raccontiamo, che, ripeto, è una storia shakespeariana. Abbiamo infatti, come ricordavi tu, iniziato il 28 di gennaio con il Mercante di Venezia, The Merchant of Venice, e procediamo fino agli eventi danteschi, che sono il 24, 25 e 26 marzo, sempre attraverso questa tecnica e in qualche modo richiamando il pubblico che potrà scrutare, potrà spiare negli occhi e nel viso dell'attore all'interno della scatola nera teatrale con le luci però adatte per la ripresa e ascoltare soprattutto le storie. Le abbiamo adattate nel senso che la versione ridotta anche di questi grandi testi shakespeariani che noi torniamo a mettere in scena, cioè il Mercante di Venezia, come abbiamo già fatto, in occasione di San Valentino ci sarà l'11 di febbraio il Romeo e Giulietta, Romeo e Juliet, e poi via via appunto si susseguirà Midsummer Night Dream, il sogno del teatro, il 25 di febbraio, l'11 marzo l'Otello e appunto 24, 25 e 26 la trilogia dantesca. Adattamenti in testi, nel senso testi più brevi, stralci per esempio per quanto riguarda Dante Alighieri, stralci e frammenti dai testi shakespeariani con gli attori di casa Shakespeare, con una riscrittura drammaturgica, in questo caso a cura mia e a cura poi per quanto riguarda Dante anche di Giulia Cailotto, e con questi attori che mi piace ricordare sono Sabrina Modenini, Giulia Cailotto, Anna Benico, Andrea Manganotto, Solimano Pontarollo, Andrea De Manincor, e le regie sono tutte di Solimano Pontarollo. Gli spettacoli sono sia per le scuole, per cui immaginate voi, insomma, grazie allo streaming, la possibilità di connettersi anche da distante e poter seguire la ripresa live, entrare dal vivo durante la mattina attraverso anche il meccanismo della LIM, della lavagna appunto multidigitale che permette ai ragazzi di connettersi con le piattaforme, alle ore 10 nel caso delle mattinee e alle ore 19 nel caso invece degli spettacoli in serale. Insomma, abbiamo imbandito un menù che ci sembra abbastanza interessante, per così dire. Ecco. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? www.casashakespeare.it è il nostro sito. Su quel sito potete andare ad esplorare appunto la nostra rassegna e potete connettervi anche ovviamente per acquisto di biglietti. Insomma, noi le cose le abbiamo fatte bene, nel senso che abbiamo deciso proprio di fare totalmente il nostro mestiere e di essere operativi a 360 gradi in modo da poter offrire un'esperienza veramente abbastanza unica, perché non si tratta della semplice ripresa dal vivo di uno spettacolo teatrale, ma si tratta di uno specifico per lo streaming, uno specifico per lo spettatore che ci vuole spiare, che guarda dentro lo spettacolo e cerca di cogliere, di carpire la natura essenziale di queste storie, la natura essenziale, potremmo dire, del nostro fare teatro. La prima rassegna di streaming drama dal titolo Abbiamo rapito William Shakespeare sta bene, è in buone mani, solo avevamo altri programmi per lui. 7 titoli per 14 repliche dal 28 gennaio al 26 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico di Casa Shakespeare, Andrea De Manincor. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci. Grazie. Poco. Grazie a te Federico e grazie a tutti voi per l'attenzione. Seguiteci. Con Elena dei Presidi Culturali Permanenti Roma per presentare l'evento Presidi Culturali Show online per 4 domeniche consecutive dal 31 gennaio al 21 febbraio 2021. Elena, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Federico. Presentiamo prima i Presidi Culturali Permanenti Roma. I Presidi Culturali Permanenti sono un gruppo molto eterogeneo, senza sigle, formato da attrici, attori, danzatrici, danzatori e maestranze, direi proprio un gruppo trasversale. Dopo la prima ordinanza, quella di ottobre, che decretava la chiusura dei teatri, noi in maniera molto spontanea ci siamo detti e dette: ritroviamoci davanti all'Argentina con un foglio A4 con le nostre rivendicazioni. Abbiamo esteso l'invito a tutta la cittadinanza ed era prima della manifestazione del 30 ottobre a Senza Spettacolare. Ci tengo a dire che siamo scesi in presidio davanti all'Argentina non tanto per richiedere l'apertura dei teatri, che come ben sappiamo, ne stavo parlando, che il presidi show è un tema complesso, ma per chiedere il rispetto dei protocolli sanitari, una visione culturale, per chiedere dei sostegni per un settore che ben sappiamo è anni che soffre di tagli. E grazie alla presenza, veramente ce lo continuiamo a ripetere, cioè al nostro essere lì in presidio, abbiamo creato tantissimi progetti, tra cui il progetto di formazione retribuita permanente, rispetto al quale ci sono stati degli incontri anche in regione. Dopodiché sono nati tantissimi altri progetti e anche i presidi culturali show, che appunto sono partiti dal Teatro del Lido. Questi 4 appuntamenti domenicali sono, guarda, per noi uno spazio che abbiamo sentito necessario rispetto a questa tematica super complessa, dove ci sono posizioni anche molto differenti sulla riapertura dei teatri. Per noi era importante creare uno spazio di confronto, un network, per uscire anche, sai, dalla tipica modalità un po' da derby, apriamo sì, apriamo no, nel senso che la nostra domanda è apriamo come. Per cui, siccome siamo in contatto anche con i presidi culturali di Milano, di Udine, abbiamo postato proprio un articolo sulla pagina Facebook Presidi Culturali Roma, che parla della nascita dei presidi culturali Brescia. Per noi era importante creare un network di confronto sia tra i presidi sia tra persone responsabili di entità e associazioni e organizzazioni diverse. Per dirti, appunto, la settimana scorsa c'era Francesca Corona, che è consulente artistica appunto al Teatro India, sono stati invitati e invitate sociologi, direttrice e direttore di teatro. Questo, volevamo uno spazio dove permetterci in maniera libera di confrontarci e di farci delle domande su cosa significa parlare di riapertura, soprattutto in vista della manifestazione del 23 febbraio, data molto importante perché ricorre un anno dalla chiusura dei luoghi dello spettacolo. Abbiamo avuto questa necessità e ci sembra che, insomma, riscontri interesse e voglia di partecipazione, perché insomma è stata una diretta seguita con tantissimi commenti, con tantissima voglia di partecipare, ecco. Come sta funzionando a livello di rete rispetto alle varie realtà che si stanno muovendo in giro per l'Italia? Sicuramente stiamo crescendo, nel senso, come ti dicevo prima, c'è stato un bellissimo contatto con i presidi di Udine, che abbiamo incontrato ovviamente in una riunione Zoom, ed è stato molto bello proprio a livello sia artistico, politico, ma anche umano, personale, conoscere la realtà di un'altra regione, cioè sapere e capire cosa stavano facendo loro, come si stavano muovendo, per cui vedere le specificità di ogni territorio, ma anche delle questioni generali che legano tutti. Ci sono stati dei contatti con i presidi di Napoli, Milano, poco dopo, davanti al Piccolo, dopo un mese che eravamo davanti all'Argentina, Milano, che tra l'altro era in zona rossa in quel periodo, ha fatto questa cosa incredibile di scendere in presidio davanti al Piccolo. Appunto, adesso siamo anche in contatto con Brescia, dove c'è una realtà molto viva, e anche loro ogni sabato hanno deciso, in direzione della manifestazione del 23, di fare presidio e di fare un lavoro, insomma, di visibilità di questo problema e di contatto con la cittadinanza e di comunicazione, perché anche di questo si tratta. L'abbiamo visto stando davanti all'Argentina, quanto sia molto bello il contatto e lo scambio con le persone che ti chiedono, che sono poi il pubblico, no? Non sono una parte ininfluente e indispensabile del nostro lavoro e della nostra partecipazione sociale, ecco, secondo noi. In conclusione, ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, e spero che abbiate voglia di seguire i presidi culturali show. Il 14 febbraio abbiamo Alessandro Toppi, giornalista e critico teatrale, e Alessandro Di Somma e Eleonora Turco di La Rocca Fortezza Culturale. Il 21 febbraio c'è Maura Gancitano e Andrea Colamedici, conosciuti molto di più come Tlon, e Francesca Bertoglio, che è direttrice generale del Teatro Fraschini di Pavia. Ci saranno anche ovviamente come ospiti sempre i presidi, altre realtà di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. E poi la possibilità, noi lo diciamo sempre, insomma, nella diretta, anche di scrivere delle domande, di chiedere, di partecipare e condividere il più possibile, insomma, questa necessità di andare verso il 23 sempre di più e sempre più informate e informati e presenti. Voi avete la vostra pagina Facebook? Presidi Culturali Permanenti Roma, trovate tutte le informazioni, c'è anche appunto l'evento Presidi Culturali Show e tra l'altro trovate appunto anche gli appuntamenti dei vari presidi che spesso adesso sono un giorno davanti all'Argentina e poi da dicembre noi siamo diventati presidi in movimento perché ci sembrava importante muoverci per la città negli spazi che sono o stati dimenticati o abbandonati o che sono in un momento di emergenza, per cui siamo stati a Santa Maria della Pietà, al Nuovo Cinema Palazzo, al Teatro delle Arti, al Teatro del Lido, quindi è possibile unirsi ai presidi in movimento, anche solo passare un giorno davanti all'Argentina, portare un proprio cartello e sentire un attimo chiacchierare, scambiarsi delle opinioni, ecco, ci teniamo sempre a dirlo che il presidio è un gruppo molto aperto e libero, per cui se volete passare noi ci siamo. Presidi Culturali Show, online per 4 domeniche consecutive, dal 31 gennaio al 21 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Elena dei Presidi Culturali Permanenti Roma. Un abbraccio, in bocca grazie. Al lupo e alla prossima. Grazie tante, ciao, buona giornata a tutte e a tutti, grazie, ciao. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.